E torniamo in trasmissione parlando dunque di Ecuador. Come tutti ormai saprete, anche e soprattutto se avrete ascoltato lunedì scorso Radio Onda Rossa, il 30 settembre c'è stato in Ecuador un tentativo di colpo di Stato da parte della polizia, che ha tenuto prigioniero per 12 ore il presidente Rafael Correa, prigioniero all'interno di un ospedale militare, circondato dalla polizia, e è stato riscattato solo in tarda notte dall'intervento di parte di un reparto d'élite dell'esercito, che invece dopo qualche ora, non subito in successione allo svolgersi degli eventi più cruciali, ha manifestato il proprio appoggio al presidente, e si è poi impegnato nel mantenere l'ordine nelle strade, mentre la polizia ormai da più di 20 ore dalla mattina aveva interrotto ogni pattugliamento, ogni sorvegliamento delle strade. Molti si sono chiesti se questo sciopero della polizia fosse solamente uno sciopero di protesta contro la legge dei servizi pubblici ecuadoriana, che toglieva alcuni premi, alcune donazioni che venivano fatte ai poliziotti in occasioni particolari, come durante alcune festività ecuadoriane o nel caso di passaggio al grado superiore, un passaggio che veniva posticipato ulteriormente dalla nuova legge, passandolo da 5 a 7 anni, da 5 a 7 anni il periodo di tempo necessario per salire di grado e quindi anche per aumentare il proprio stipendio. Molti si sono chiesti se era appunto solo uno sciopero, ma abbiamo visto come alcune caratteristiche di questa giornata, che non si sapeva fino a tarda notte dove dovesse andare a parare, sono stati episodi caratteristici di un colpo di Stato, come l'occupazione del Parlamento da parte della polizia, come l'ingresso di alcuni politici dell'opposizione, l'opposizione dell'entourage del vecchio presidente Lucio Gutiérrez, come il presidente che recatosi nella caserma di Quito 1, la caserma principale della capitale ecuadoriana, si rivolgeva ai poliziotti in sciopero, e subito dopo scoppiavano dei tumulti che portavano al ferimento dello stesso presidente. L'occupazione dell'aeroporto internazionale di Quito da parte di reparti dell'aviazione, il blocco di alcune strade importanti per la circolazione del paese, sempre da parte della polizia, tutti fatti, eventi che manifestavano che si stava andando al di là dello sciopero della polizia. Lo stesso presidente non ha esitato nemmeno un attimo a dire che si trattava di un colpo di Stato, anche se invece, al contrario, visto che il presidente si è pronunciato solo dopo la liberazione, al contrario, nelle ore precedenti i suoi ministri del governo esitavano a utilizzare queste parole, cercavano una ricomposizione, forse soppesando un po' il livello della contrapposizione all'interno dello stesso Stato. Chi è che sta con noi? Facciamo una conta, vediamo se l'esercito, che ancora non si è pronunciato, sta con noi o appoggia la polizia. Ma oltre queste valutazioni che si basano sul corto periodo, e oltre naturalmente all'associarci alla solidarietà nei confronti delle organizzazioni sociali ecuadoriane, che sicuramente erano minacciate da un colpo di Stato che avrebbe necessariamente spostato a destra il governo del paese, non possiamo però esimerci di notare anche le critiche che da quelle stesse organizzazioni sociali, prima su tutte la CONAIE, la grande organizzazione indigena ecuadoriana, che ormai da febbraio ha interrotto i dialoghi con il governo, non come si legge sullo stesso comunicato di febbraio della CONAIE, non perché il processo innescatosi nel 2007 con la vittoria di Correa non abbia portato alcuni importanti risultati, uno su tutti, quello del progetto che proprio nei mesi scorsi ha visto un'importante ratifica internazionale, ossia il progetto dello Yasuni ITT, che prevede la conservazione del petrolio all'interno della foresta amazzonica di questa regione equatoriana, conservazione del petrolio nel sottosuolo non verrà estratto a patto che alcuni stati, alcuni organismi internazionali versino all'Ecuador dei fondi per supplire al mancato profitto dell'estrazione di questo petrolio. Quindi diceva la CONAIE, certo ci sono stati alcuni risultati, però il governo continua a proporre una politica di sviluppo, a reprimere i movimenti sociali e in un comunicato che è uscito lo stesso giorno del colpo di Stato ha rimarcato di nuovo questa cosa. Invece di reprimere i movimenti sociali, il governo di Correa avrebbe dovuto porre in modo migliore sotto controllo la polizia ed altri enti, organismi dello Stato che sono in mano alla destra. E quindi andiamo a ripercorrere insieme questi 3 anni che hanno visto l'Ecuador unirsi ad altri paesi del Sud America fortemente critici nei confronti degli Stati Uniti, come il Venezuela, come la Bolivia, che hanno manifestato la loro opposizione al golpe in Honduras, che hanno protestato in occasione dello sconfinamento militare, della vera e propria aggressione della Colombia all'Honduras, perché entrava con le proprie forze militari nel territorio. Sì, scusate, dell'Ecuador, non dell'Honduras, entrava con le proprie forze militari all'interno del territorio ecuadoriano per colpire nel 2008 l'accampamento delle FARC, l'organizzazione guerrigliera colombiana, dove si trovava il comandante delle FARC, Raul Reyes, che ha espulso gli Stati Uniti, i militari statunitensi dalla base di Manta. Ma come vedremo invece, oltre questa facciata ostile agli Stati Uniti, o quantomeno vuole ristabilire la propria autonomia da Washington, permane un legame anche militare, oltre che finanziario, con gli Stati Uniti. Andiamo a vedere questi 3 anni. Prima però, prima anche di lasciarvi con una breve pausa musicale, andiamo a vedere quali sono gli antecedenti della vittoria di Correa nel 2007. Abbiamo per gli anni 90 ecuadoriani un periodo veramente drammatico, sia dal punto di vista economico, con la sperimentazione delle riforme neoliberali che hanno coinvolto molti paesi del Sud America, come l'Argentina. Tutti ricorderete la crisi del 2001, proprio frutto delle riforme neoliberali di Menem. Il Venezuela, un Venezuela che sperimenta tutti i dettami del Fondo Monetario Internazionale prima delle elezioni del 98 che porteranno alla vittoria di Chavez. Il Brasile, anche l'Ecuador vive questa serie di riforme neoliberali, e quindi privatizzazioni, svalutazioni della moneta, aumento del prezzo dei generi alimentari e della benzina. Una serie di misure che portano all'impoverimento della popolazione ecuadoriana. Nel 2000 ben 9 milioni di persone, su una popolazione di una quindicina di persone, di una quindicina di milioni di persone, vivono sotto la soglia di povertà, e addirittura di queste 4 milioni e mezzo sono in una situazione di povertà estrema. Il debito estero raddoppia dal 1982 al 2000, nonostante vengano pagati ben 75 miliardi di dollari di debito estero. Il sucre, la moneta ecuadoriana, viene prima svalutata del 216% nel 1999, quindi con il crollo del potere d'acquisto da parte delle classi popolari, e poi addirittura abolita e sostituita dal dollaro statunitense, che tuttora è la moneta utilizzata in Ecuador. Quindi un'ulteriore perdita d'autonomia, perché l'Ecuador rinuncia così a portare avanti una politica monetaria autonoma utilizzando la moneta di un altro paese. E che paese? Alla terribile crisi economica che in Ecuador proprio l'estremizzazione della crisi economica che si vivono negli altri paesi, si accompagna naturalmente una forte agitazione politica che porta alla cacciata di ben tre presidenti in questi 10 anni, dal 96 al 2006, tre presidenti. In più ci sono stati anche altri tre presidenti che hanno preso il posto di questi tre cacciati, e queste proteste popolari che hanno cacciato prima Bucaram nel 97, poi Muad nel 2000 e poi Lucio Gutierrez, di cui parlavamo prima, nel 2005, sono state coordinate, o comunque hanno visto un importante protagonismo della CONAIE, che, come dicevo, è una delle prime organizzazioni indigene del continente. Fu fondata nell'86, ma già esistevano importanti strutture indigene con la propria storia organizzativa che risaliva agli anni 30, che già esistevano nel paese, un paese dove il 7% della popolazione è indigena, e naturalmente la stragrande maggioranza, il 75% della popolazione, è meticcia, e quindi porta nelle sue vene sangue indigeno. Va detto che però il partito legato alla CONAIE, il partito Pachakutik, che nel 2005 appoggiò, nel 2003 appoggiò il governo di Lucio Gutierrez, ha poi subito la propria evoluzione. Infatti, in occasione di questo colpo di Stato si è schierato a fianco dei golpisti, mostrando forse anche le connessioni tra i golpisti e proprio Lucio Gutierrez, che evidentemente mantiene il proprio gruppo di sostenitori all'interno di Pachakutik, che però è stato fortemente penalizzato nelle elezioni successive, quelle di Correa, proprio per il suo appoggio a un governo, quello di Lucio Gutierrez, che invece ha tradito il programma antiliberista con il quale si era proposta l'elezione nel 2003, e ha fortemente represso il movimento indigeno, e si è anzi fortemente impegnato per il ritorno in patria degli ex presidenti Bucaram e Noboa, cacciati a loro tempo dalle proteste popolari. E quindi si arriva al 2007 con questo clima di grande instabilità politica, di grande crisi economica, anche di grande volontà di cambiamento. Noi ora vi lasciamo con un'altra e ultima breve pausa musicale, e poi torniamo per parlare in particolare di questi 3 anni di governo Correa. Terrible. Se va de soldado y vuelve convertido en serpiente. Olvidan que tenemos tradición de guerrero. Olvidan nuestras alas y nuestros sueños. Olvidan que tenemos corazón que arde en fuego. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Voy. Dedicación especial para la gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para los pueblos indígenas y resistencia del mundo entero, para la gente que se levanta, la que construye, la que avanza. librando una guerra contra el olvido. Los años siguen pasando y seguimos en el camino, aquí y seguimos en el camino, allá. Yo prendí una vela por la esperanza, y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza, un mar de luces avanza. Rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen. Si la semilla se riega, si la semilla se riega. Esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen. Si la semilla se riega, si la semilla se riega. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos. E arriviamo dunque al 2006, anno in cui Rafael Correa, un economista che era già stato ministro dell'economia nel governo Palacio per 4 mesi nel 2005, il Palacio era il vicepresidente di Lucio Gutierrez, che dopo la sua cacciata divenne presidente, e Correa fu ministro dell'economia per qualche tempo nel suo governo. Esigimo rispetto, rispetto per la gente e per i suoi diritti. Un mondo dove quepan muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que en la unión está la clave para vencer. No es demasiado tarde para entender que la unión está la clave para vencer. Ya lo dice la Sexta, en la unión está la clave. Tú sabes que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Dicevo che Correa vince, era poi uscito dal governo di Palacio per alcune divergenze con la politica del governo, soprattutto perché aveva proposto di emettere dei buoni del debito che poi il Venezuela avrebbe acquistato, e questa proposta non venne accettata, e lui si candida nel 2006 a capo del movimento Alianza País. País sta per Patria Altiva e Sovrana, con un programma che prevede soprattutto la convocazione di un'assemblea costituente che si occupi di scrivere la nuova Costituzione. Vince le elezioni, stravince il suo movimento anche le elezioni per l'assemblea costituente, andando con 80 deputati su 130 all'assemblea che si occupa di redigere la nuova carta costituzionale, ma da quel momento alcuni equilibri cambiano anche nel fronte che lo sostiene. Infatti escono alcuni esponenti, tra i quali proprio il presidente dell'assemblea costituente Andrea Costa, dal movimento Alianza País, esponenti soprattutto della sinistra del movimento. Comunque Correa si riconferma alle elezioni presidenziali del 2009, convocate per la necessità di riandare a eleggere tutte le cariche dello Stato eleggibili dopo la nuova Costituzione, e quindi rimarrà presidente dell'Ecuador sicuramente fino al 2013, data delle prossime elezioni. E già dal 2007 comunque inizia ad affermare alcune discontinuità rispetto al passato, soprattutto nel lavoro a fianco di altri paesi del continente per una maggiore integrazione sia economica sia politica latinoamericana, con l'adesione nel 2009 del suo paese all'ALBA, l'Alianza Bolivariana Las America, che è un'alleanza commerciale promossa da Cuba e Venezuela, che però, come dicemmo anche 2 anni fa e come potete ascoltare riascoltando quell'intervista sul nostro sito comitatocarlosfonseca.noblogs.org, da dove potete ascoltare alcune delle vecchie trasmissioni andate in onda, era però informata da un particolare obiettivo, quello di ridurre le disuguaglianze all'interno dei paesi latinoamericani e sostenuta soprattutto dai fondi legati al petrolio venezuelano. E altre esperienze come l'UNASUR, l'Unione delle Nazioni Sudamericane, che proprio in occasione del tentativo di golpe in Ecuador è stata rapidissima nell'affermare la propria solidarietà a Correa, riunendosi lo stesso 30 settembre a Buenos Aires con molti dei capi di Stato dei vari paesi del Sud America. Per altre cose, l'Ecuador, tra l'altro totalmente in linea con altri paesi come il Venezuela e la stessa Bolivia, invece ha suscitato le critiche delle organizzazioni sociali del suo paese che, caso non totalmente strano, in Ecuador sono più forti che in Venezuela e in Bolivia. Anche se bisogna fare alcune precisazioni, in Venezuela non ci sono organizzazioni sociali forti come in Ecuador con la CONAIE, né come in Bolivia con le organizzazioni sociali, che però sono maggiormente inserite nell'alleanza di governo che ha condotto al potere Evo Morales. In Ecuador invece c'è una forte personalizzazione da parte del presidente Correa del proprio progetto politico. Il suo stesso governo ha cambiato più volte ministro, l'unico che è sempre rimasto saldo e anche come immagine dello stesso cambiamento è stato proprio Correa. E cosa ben più importante, la CONAIE e altre organizzazioni sociali ecuadoriane si sono scontrate molte volte negli ultimi mesi con il governo ecuadoriano su alcune questioni centrali nelle scelte di che tipo di economia deve sviluppare l'Ecuador. Infatti la scelta di Correa, come d'altronde anche la scelta di Chavez, la scelta di altri paesi del Sud America come l'Argentina, come il Brasile, è stata una scelta sviluppista, ossia quella di sviluppare le infrastrutture, di potenziare e magari riappropriarsi, riportare nelle mani dello Stato parte dell'industria soprattutto estrattiva ed agricola nazionale, ma non sempre nelle mani dello Stato, a volte anche con concessioni importanti a multinazionali straniere, che dica la propaganda di questi governi, e senza tenere conto dei dubbi che questo stesso modello proprio oggi nel 2010 ci pone, perché non siamo più nel 1960, quando sia i paesi dell'Occidente capitalista sia i paesi dell'Oriente socialista vedevano in uno sviluppo continuo e inarrestato la soluzione sia con modelli diversi per la povertà. Oggi questo modello è ripetutamente messo in dubbio, in primis per i cambiamenti climatici, per i danni ecologici che presenta, ma anche e con forse meno immediatezza, ma con più intelligenza e con più analisi, anche per i danni che provoca nella società, nei diritti dei lavoratori, negli stessi problemi che pone per l'autonomia, per la sovranità, quella che viene denominata sovranità alimentare di un paese, perché se io decido di basare l'economia del mio paese sull'esportazione del petrolio, come fa il Venezuela, poi quando il prezzo del petrolio cala, tutto il paese va in crisi e il reddito si abbassa, non ci sono più redditi da distribuire, o come è successo ciclicamente da ormai 200 anni e forse ancora di più in tutti i paesi del Sud America, quando sono crollati il prezzo delle banane, il prezzo del cacao, il prezzo dello zucchero, della soia, tutto ciò ha trascinato nella povertà i paesi che incentravano la loro economia sull'esportazione per il mercato internazionale, per i paesi ricchi, di questi paesi e di questi prodotti. E quindi che cosa ha fatto Correa? Oltre a promuovere alcune iniziative di ridistribuzione sicuramente ottime, come un sussidio al milione di persone più povere del paese, come l'aumento delle spese sociali per la casa, per l'educazione, per la sanità, che tra l'altro in Ecuador erano le più basse dell'America Latina, ha però portato avanti un modello di sviluppo fortemente contestato dalle organizzazioni sociali e indigene del paese. E Correa stesso si è opposto all'ecologismo e soprattutto a queste organizzazioni sociali del paese. Notiamo che gli indigeni propongono un modello di società che non è nella tradizione dell'Occidente, sia di quello capitalista, sia purtroppo anche di quello socialista, produttivista, che fa riferimento, diciamo così, all'Unione Sovietica, o comunque al modello di socialismo sviluppista che ha poi lasciato nella povertà gli abitanti dei paesi dell'Est Europa e ha anche distrutto l'ecosistema di molti luoghi dei territori che governava, perché comunque quando si parla di ecosistema non si parla della bellezza di andare a visitare un luogo e vederci le farfalle ed essere contenti, ma si parla del posto dove la gente vive, dove la gente respira, dove la gente beve l'acqua. E quindi dobbiamo stare attenti nel ironizzare sull'ecologismo o su cose che d'altronde ci troviamo a contrastare nei nostri territori tutti i giorni. E Correa si è espresso in merito a queste critiche dichiarando che l'ecologismo è una concezione di sinistra infantili che potrebbero emergere, che d'altronde sono emersi durante il suo governo, come la minaccia peggiore, addirittura peggiore, della destra. Sono poi emersi quando il presidente Correa ha emanato alcune leggi, come la legge per il settore minerario e la legge per le acque, che sono state fortemente contrastate dalla CONAIE e delle altre organizzazioni sociali del paese. La nuova legge per il settore minerario, secondo queste organizzazioni, promuoveva lo sfruttamento su grande scala delle risorse minerarie e l'inquinamento delle riserve d'acqua, mentre la grande beneficiaria di tutto questo sarebbe stata fondamentalmente l'impresa privata. Tra l'altro, la nuova Costituzione che Correa ha approvato anche con il consenso degli indigeni riconosceva il dovere di consultare le nazionalità indigene interessate per approvare leggi che coinvolgevano i loro territori, e questa cosa non è avvenuta nel caso della legge mineraria e poi anche con quello della legge sull'acqua che ha portato alla rottura della CONAIE con il governo nel febbraio del 2010. A partire da allora, insieme alla FENOSIN, la Federazione Nazionale di Organizzazione Campesinas Indígenas y Negras, e alla FEINE, la Federazione de Indígenas Evangélicos, si è mobilitata contro la legge sulle acque, ritenendo che lasciasse la porta aperta alle privatizzazioni, lasciando l'unica autorità sulla gestione delle acque ad un'autorità statale sotto il controllo del governo e non sotto il controllo delle organizzazioni sociali e degli stessi abitanti di quei territori, che spesso in quelle zone totalmente carenti di infrastrutture si occupano loro di costruirsele per riuscire ad approvvigionarsi d'acqua. Io ricordo il caso che ho conosciuto direttamente di una regione della Colombia dove non c'erano acquedotti, dove c'erano tantissimi corsi d'acqua dalle quali la popolazione si approvvigionava direttamente con mezzi propri, attraverso condutture proprie, e che acqua, risorse idriche che venivano privatizzate dal governo colombiano e cedute ad una società di Barcellona, alla quale da quel momento gli abitanti di quella regione avrebbero dovuto versare dei soldi per un servizio nel quale già erano autonomi, già riuscivano ad usufruirne autonomamente. E quindi immagino anche a casi come questo si riferisce la CONAIE quando contesta. Già è doveroso contestare la privatizzazione dell'acqua, del servizio idrico, perché non si può lucrare su un bene primario quale è l'acqua nel caso ci siano delle infrastrutture, ma in questo caso sarebbe ulteriormente paradossale. E le mobilitazioni indigene in molti casi sono state represse duramente dalla polizia e sono state, diciamo, il maggior conflitto sociale da quando Correa è presidente. Altre iniziative sempre sulla linea di uno sviluppo che forse arricchirà una nuova borghesia equatoriana, ma difficilmente porterà qualità della vita alla popolazione equatoriana, una popolazione che, ricordo, vive ampiamente, la cui grande maggioranza vive ampiamente sotto la soglia di povertà, 9 milioni, ricordavo la cifra prima, 9 milioni su una popolazione che raggiunge a malapena i 16 milioni. Altre iniziative sono state l'attivazione del collegamento Manta, che molti conosceranno perché lì si trovava la più grande base statunitense del continente, dalle quali poi gli americani sono stati cacciati dallo stesso Correa. Manta Manaus, che invece si trova dalla parte opposta dell'Amazzonia in Brasile, un collegamento che deve diventare il corridoio commerciale tra Pacifico e Atlantico e che intende trasformare la città costiera di Manta nella porta di entrata ed uscita del commercio tra l'Asia e Sud America. Quindi un Ecuador totalmente integrato in un modello di sviluppo globale nel quale forse riesce a ottenere qualcosa di più rispetto a prima, quando era totalmente suddito dagli Stati Uniti, ma che quanti profitti, quanta qualità della vita porterà alla popolazione colombiana, lo vediamo d'altronde anche in Cina, un paese dove l'impetuoso sviluppo porta questo gigante asiatico tra i primi posti. Ormai solo gli Stati Uniti stanno sopra la Cina come sviluppo economico, come produzione economica, dalle contraddizioni enormi. Lo vediamo in Brasile, come abbiamo già avuto modo di parlare tante volte, un Brasile lanciato anch'esso tra le grandi potenze del pianeta, ma dove ci sono milioni di persone che vivono nelle favelas di San Paolo, Rio de Janeiro ed altre città brasiliane, dove ci sono dei veri e propri schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero, di cui il paese è esportatore, sia sotto forma di zucchero raffinato, sia sotto forma degli agrocombustibili che vengono ottenuti da questa pianta. Anche le concessioni per lo sfruttamento del greggio in Amazzonia sono aumentate. Tra queste spicca la concessione alla corporazione canadese Ivanhoe Energy, la quale potrà estrarre il petrolio della riserva della biosfera di Sumaco, senza, anche in questo caso, che i popoli indigeni siano stati consultati dal governo. In questo ambito, però, quello dello sfruttamento delle risorse petrolifere va però trattata a parte, lo faremo forse addirittura lunedì prossimo, l'iniziativa Yasuni ITT, un'iniziativa che è stata proposta dall'organizzazione indigene, che per molto tempo ha visto gli stessi dubbi di Correa a ritardare la sua messa in pratica, ma che finalmente è stata proposta internazionalmente ed anche ha avuto un discreto successo in questo clima di mobilitazione con un tentativo forse solo di facciata per arginare il cambiamento climatico, che consiste nel, come dicevo prima, nel non sfruttare la maggior riserva dell'Ecuador per in cambio del pagamento di buoni che vengono versati all'Ecuador fin tanto che non utilizzerà questa riserva petrolifera. E quindi sembra rimanere come uno dei pochi dati positivi, a parte, abbiamo detto, un aumento delle spese sociali, il distanziamento da Washington, con la cacciata degli Stati Uniti dalla base di Manta, con lo schierarsi, il comporsi di un fronte continentale contro le ingerenze statunitensi. Ma se poi andiamo a vedere, e queste sono tutte notizie che io ho preso da un ottimo articolo che potete trovare sul sito internet www.senzasoste.it, tradotto in italiano, un articolo che si chiama 3 anni e mezzo dalla vittoria di Rafael Correa in Ecuador, potrebbe, dicevo, sembrare che comunque l'emancipazione dagli Stati Uniti sia ormai un'acquisizione dell'Ecuador, ma in realtà se si vanno a leggere alcuni dati si può vedere come in realtà addirittura siano aumentati i finanziamenti militari dagli Stati Uniti all'Ecuador. Addirittura è stata attivata durante la presidenza di Correa la collaborazione con la DIA, il Dipartimento Antidroga degli Stati Uniti, che si è tradotto con un investimento da parte degli Stati Uniti di ben 50 milioni di dollari solo tra il 2008 e il 2009, un finanziamento alla polizia che serve per contrastare la lotta al narcotraffico. Ancora una volta questo è il cavallo di Troia dell'ingresso statunitense, l'ingresso militare statunitense nel continente. Già l'abbiamo visto più volte con la Colombia, dove con il narcotraffico viene giustificato il massiccio finanziamento militare a questo paese genocida, e altre collaborazioni sono state attivate anche per la sorveglianza del confine settentrionale, proprio quello con la Colombia, dove spesso i gruppi guerriglieri pongono le loro basi fuori dal territorio colombiano e dalla portata dell'esercito colombiano. Di contributi alla nostra e alla vostra radio, versando le vostre sottoscrizioni al conto corrente postale 6180 4001, intestando al bollettino a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185 Roma. Noi ci risentiremo sempre da queste frequenze lunedì prossimo alle 17:30, sperando questa volta di essere un po' più puntuali, e vi ringraziamo per averci seguito fino a questo momento. Salutiamo tutti e tutte, e in particolar modo chi ci ha seguito privato della propria libertà personale.